Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Elezioni USA, il dibattito dei numeri 2 è la vera sfida. Grecia, Alba Dorata e un'organizzazione criminale. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Everyone's talking. Tomorrow night is the vice presidential debate between Mike Pence and Kamala Harris, and both candidates are getting ready. What is at stake, and as you very rightly pointed out, is the fact that a political party's modus operandi will be likened to that one of a criminal organization. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni in regia, Valeria Bernardi. E le coordinate per porre domande, interagire, criticare, perché no, i contenuti e alimentare soprattutto il dibattito le conoscete: 349-238-6666, SMS, WhatsApp, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, il tutto lo sapete, ormai le regole le state, devo dire, rispettando, nell'alveo della buona educazione, un termine forse un po' desueto, comunque lo sapete, non ammetto commenti razzisti, sessisti, xenofobi, e vituperi vari, per il resto liberissimi, lo ripeto, anche di criticare questo programma. Di che cosa parliamo oggi? Due le pagine. La prima è importantissima perché ci stavamo domandando prima in redazione, sempre a distanza, se i due candidati alla vicepresidenza abbiano passato una nottata tranquilla. In questo momento si stanno probabilmente svegliando dopo aver studiato e ristudiato e soprattutto essersi allenati quasi come fossero una palestra di box con il loro sparring partner. Dicevo, i due vicepresidenti candidati alla vicepresidenza si sono allenati perché questa sera, ore 3 del mattino italiane, sono già sbarcati in Utah. Ci sarà il confronto, un confronto dei numeri due che acquisisce e assume un'importanza e un significato molto molto diverso da quello che forse ci aspettavamo qualche mese fa. Quindi Kamala Harris contro il vice, l'attuale vicepresidente, l'ex procuratore distrettuale contro il pacato chirurgico oratore, e da una parte una figura che l'America ha già conosciuto, Mike Pence, alla vicepresidenza, dall'altra parte una candidata che ha fatto storcere il naso perché da ex procuratrice, ve ne dico una su tutte, aveva usato il pugno duro e poi invece aveva abbracciato il movimento Black Lives Matter. Qualche contraddizione, insomma, da sottolineare in campo democratico. Poi andremo in Grecia perché ad Atene decine di migliaia di persone sono scese in piazza aspettando una sentenza importantissima, quella su Alba Dorata. Ve lo preannuncio, è stata bollata come organizzazione criminale. Queste sono le due pagine di Nessun Luogo Lontano, ma noi come prima cosa andiamo a sfogliare i nostri dossier. Che sono quei fatti e quelle notizie che continuiamo a tenere d'occhio qui a Nessun Luogo Lontano, sono state magari puntate di Nessun Luogo Lontano e diventeranno nuovi episodi in questa stagione. Kirghizistan, il primo ministro Kubatbek Boronov e il presidente del Parlamento Jumabekov si sono dimessi ieri dopo che la commissione elettorale, ve ne davamo notizia proprio ieri, ha annullato i recenti risultati delle elezioni parlamentari. Il tutto era nato da una forte protesta di piazza, irruzione nei palazzi del governo, l'accusa era di brogli elettorali e la commissione elettorale, ma anche parte della leadership kirghiza, ha fatto un passo indietro. Il presidente Jeenbekov è apparso in televisione, ha fatto appelli alla calma, ma la maggior parte delle persone crede che i suoi giorni al potere siano ormai da contare con una piccola clessidra, la sabbia starebbe scendendo. D'altra parte, attenzione, perché alcune zone del mondo ci hanno consegnato poca capacità previsionale. Di Lukashenko dicevamo la stessa cosa fino a qualche settimana fa, giorni al potere ormai contati, invece non è andata per ora così. La Russia è molto preoccupata della crisi in Kirghizistan, presa di posizione ufficiale, Mosca dice: ci auguriamo che questa crisi venga risolta pacificamente. E intanto però la piazza kirghiza si prende un endorsement, come direbbero gli anglosassoni, di peso. Perché Alexei Navalny, da Berlino, lo sapete, dissidente, oppositore russo, ancora non è tornato in Russia, ha twittato, e letteralmente traducendo più o meno dal russo, "Ganzi i kirghisi", e così il principale leader dell'opposizione russa appoggia in qualche modo quello che è il movimento di piazza kirghizo. Oltre all'endorsement tutto politico, benché di peso, di Navalny, c'è da registrare anche ampi settori della cultura e dello spettacolo che sono scesi in piazza assieme alla folla. E poi andiamo in Libia. Oltre a ricordare che ancora non si è risolta la questione dei 18 marittimi italiani che sono nelle mani del governo dell'est della Cirenaica di Bengasi, intanto i delegati delle due amministrazioni rivali in Libia si sono riuniti in Marocco e hanno annunciato che il secondo round di colloqui è riuscito a trovare un accordo sui criteri per selezionare le personalità che ricopriranno le posizioni chiave nel governo del paese, dal governatore della Banca Centrale al presidente della Corte Suprema, eccetera. E quindi sembra che continui a piccoli stentati passi quel processo di riunificazione che in sede europea non aveva avuto esattamente successo. Però, come fa notare in maniera molto sagace, forse direte voi banale, un reporter di Al Jazeera, la domanda è ora se questo accordo verrà attuato. Infine gli aggiornamenti dal Nagorno-Karabakh, perché continua la guerra nell'importante regione del Caucaso. Il Ministero della Difesa del Nagorno ha affermato di aver registrato altre 40 vittime tra le truppe, che, se ricordiamo, sono sostenute dall'Armenia, portando il bilancio totale a 280. I civili morti sarebbero 47. Secondo i funzionari dello stesso governo della regione, de facto il 50% della popolazione karabaka e il 90% di donne e bambini sono stati sfollati. Intanto registriamo, ma ve ne davamo conto già ieri, la nuova presa di posizione da parte di Teheran. Ha parlato in particolare Hassan Rouhani, il presidente, avvertito del pericolo che il conflitto tra Azerbaigian e Armenia si trasformi in un conflitto regionale. La pace è la base del nostro lavoro, speriamo di ripristinare la stabilità nella regione in modo pacifico. Così ha detto, apparendo in televisione, l'Iran non permetterà agli stati di inviare terroristi ai nostri confini con vari pretesti. E qui il messaggio era molto molto evidente, con quella presenza denunciata da vari attori di quei mercenari siriani che avrebbero contribuito a allargare quelli che sono gli attori presenti appunto nello scacchiere caucasico. Questi nostri dossier internazionali sono fatti notizie dei quattro angoli del globo, che diventeranno le prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. E allora adesso chiudiamo questa prima pagina e andiamo a parlare di Stati Uniti, perché questa sera è la sera dei vice. Intanto arrivano un po' di messaggi al 349-238-6666. Vito scrive: ho avuto l'occasione non voluta, non capisco bene cosa significhi, qualcuno l'avrà incatenata alla sedia in notte fonda, comunque perdoni la faccezza, di seguire, dice, scrive Vito, il dibattito fra Trump e Biden, spettacolo penoso se parliamo della nazione più potente al momento. Spero che il dibattito tra i candidati alla vicepresidenza sarà al livello che l'America merita. E proprio questo è il punto, credo che sarà questo il motivo che incollerà milioni e milioni di statunitensi quest'oggi, anzi questa sera, questa notte per noi, al loro televisore. Un po' di come dire, di grammatica che verrà utilizzata, anche logistica. Partiamo dalle procedure, perché innanzitutto lo staff di Mike Pence ha accettato l'uso del plexiglass sui lati del palco per avere maggiore sicurezza per il dibattito appunto con Kamala Harris. All'inizio lo staff repubblicano aveva detto che non vi era alcun bisogno, bisogno di proteggere e di proteggersi vicendevolmente. Poi invece sono evidentemente tornati a più miti consigli. E poi un altro punto molto importante, come ha evidenziato in maniera molto molto violenta il decorso per ora buono, anche se Anthony Fauci dice attenzione perché il presidente potrebbe avere ricadute, c'è il rischio che i due, l'attuale presidente e i candidati alla presidenza, che non sono certo giovanissimi, possono in qualche modo soffrire di incidenti di percorso, motivi di salute per esempio, senza pensare al peggio, al che i due vice, che certamente hanno un'età diversa, 61 anni il repubblicano, 55 la democratica, possono essere chiamati nei prossimi mesi, se non nei prossimi anni, a ricoprire il ruolo di presidente. È successo solo 9 volte nella storia degli Stati Uniti, ma questo è uno dei motivi di attenzione che tanti network, soprattutto statunitensi, puntano appunto importante. Terzo fattore da non tenere conto, come giustamente scriveva l'ascoltatore, al di là dello spettacolo penoso nelle forme, e su questo sono abbastanza d'accordo, giudizio al vetriolo ma che mi trova concorde, si è parlato pochissimo dei contenuti nel dibattito dei due aspiranti presidenti. Ecco, credo che molti elettori americani potrebbero prendere la loro decisione dopo aver ascoltato i contenuti tra l'esponente repubblicano e quello democratico. E poi c'è un altro punto che va sottolineato: quali poteri ha il vicepresidente degli Stati Uniti? Mai come forse in queste ultime settimane nella storia degli Stati Uniti alla ribalta, Andrea Macchioni ha provato a ricapitolare in 90 secondi quali sono le funzioni, i ruoli, le responsabilità del vicepresidente della nazione più potente al mondo. Il vicepresidente degli Stati Uniti d'America è il primo nella linea di successione presidenziale e viene eletto indirettamente in maniera congiunta al presidente. Essendo un potenziale presidente, la Costituzione degli Stati Uniti prevede che i candidati alla vicepresidenza debbano avere gli stessi requisiti necessari per la carica di presidente. Il mandato dura 4 anni, ma a differenza della presidenza, il vicepresidente non è soggetto al cosiddetto fenomeno dell'anatra zoppa, il limite dei 2 mandati consecutivi. Quando il Senato emette un voto in parità, il vicepresidente è decisivo, perché può manifestare il suo voto. Inoltre, il vicepresidente uscente è a capo della seduta del Congresso, che convalida l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti. Più generalmente, il vicepresidente svolge la funzione di consigliere presidenziale, rappresentante del presidente e partner di governo, come nel caso di Mike Pence, che è attualmente alla guida della Task Force per la lotta al coronavirus. È compito del vicepresidente svolgere le funzioni presidenziali ogni volta che il presidente sia impedito nelle sue funzioni. L'inquilino della Casa Bianca può anche delegargli il suo ruolo temporaneamente, purché l'indisponibilità del presidente sia fissata e limitata nel tempo. Il vicepresidente degli Stati Uniti gode inoltre di uno stipendio pari a $235,100 e di una residenza ufficiale al numero 1 di Observatory Circle, Washington DC. Nel dibattito di oggi, riuscirà Kamala Harris a imporsi grazie alle sue tecniche incalzanti? O la calma e la disciplina che contraddistinguono Mike Pence vinceranno il voto degli elettori come 4 anni fa? Intanto i due candidati scaldano i muscoli, provano affondi, parate, difese. Vedremo se questa notte, ore 3 del mattino, ora italiana, assisteremo a un duello a colpi di sciabola o di fioretto. Ed è quello che tutti si aspettano, in primis i commentatori, ma soprattutto gli statunitensi. Un po' di messaggi al 349-238-6666, scusate, stavo leggendo un messaggio che è notevole, perché un ascoltatore dice 10 volte, se consideriamo, sta parlando del numero di casi in cui il vicepresidente è subentrato al presidente, 10 volte, scrive l'ascoltatore, però conteggia House of Card e che è fiction. D'altra parte stiamo assistendo a una serie di colpi di scena che forse neanche una penna formidabile come quella della celebre serie televisiva poteva veramente lasciare inchiostro su carta. Trump nello studio Ovale, nonostante l'isolamento, così una breaking dell'Ansa subito dopo. La Casa Bianca smentisce che Trump fosse ieri nello studio Ovale nonostante l'isolamento stesso. Sembra veramente che una notizia si sussegua all'altra e vada veramente a alimentare un fumus che aleggia su queste importantissime elezioni presidenziali. Proveremo a cercare di far luce, ma soprattutto proveremo a capire ancora una volta quella che è l'importanza dell'appuntamento di questa sera, forse come non mai. Lo faremo con una voce autorevole come quella di Massimo Teodori, storico americanista, autore fra le altre cose del Genio Americano, Rubettino editore. Professor Teodori, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo è Lontano. Buongiorno. Allora, chi vince questa sera tira la volata ai due candidati, è d'accordo? È l'incontro definitivo per queste presidenziali? Ma io non direi che chi vince stasera vincerà la presidenza americana, perché ci troviamo di fronte a una figura di presidente uscente, Trump, il quale di per sé fa tutto il gioco, cioè tutto si giocherà a favore o contro il presidente uscente. La sua personalità è tale, nella sua singolarità, nel modo in cui è stato esercitato il mandato presidenziale, che lui farà il 90% di tutta quanta l'opera elettorale per prendere dei voti o per respingere dei voti. Teniamo presente che voi avete ben descritto le funzioni, diciamo, istituzionali del vicepresidente e via di seguito, ma che politicamente i vicepresidenti hanno delle funzioni molto diverse a seconda di quello che è il loro rapporto, la loro personalità e il loro rapporto con il presidente. Ci sono stati dei vicepresidenti molto forti, per esempio Nixon con Eisenhower, e dei presidenti assolutamente che non hanno contato nulla, perché il presidente era talmente forte, come è stato in questo caso con Trump. Sì, e nelle parole di Massimo Teodori, studioso esperto di America, ricordo il suo ultimo libro, Il Genio Americano, Rubettino editore, si evince innanzitutto che è anche una questione di fiducia tra quella che intercorre tra il presidente e il vice, e la scelta evidentemente del numero due ha un suo peso. Nel caso di Kamala Harris, andiamo sul fronte democratico, è evidente che Biden, bianco, di una certa età, abbia voluto una donna più giovane e afroamericana. Però la Harris in qualche modo è stata tacciata di essere un pochino ondivaga, diciamo, nei suoi comportamenti. Da procuratrice distrettuale, pugno duro contro i malviventi, contro la delinquenza di strada, con anche tassi di inquisizione, di denunce, di messi alla sbarra piuttosto alti, e poi l'endorsement da Black Lives Matter che si è attirata un po' di strali. Contraddizioni in seno al fronte democratico che la Harris riuscirà, secondo lei, a superare? Beh, io non direi contraddizioni, io direi che Kamala Harris ha una personalità molto forte, una personalità che gli viene dalla sua lunga carriera giudiziaria. Lei è stata procuratrice a livello locale a San Francisco e poi dello Stato della California, e come procuratrice ha esercitato in maniera molto energica il suo mandato, e esercitando in maniera molto energica il suo mandato ha avuto a che fare naturalmente anche con la criminalità, che è una parte della criminalità, è inutile negarlo, viene dalla popolazione nera. Allora lei si trova oggi nella condizione di dover essere il vice in un ticket con il compito sostanzialmente di attirare l'elettorato non bianco rispetto alle caratteristiche molto tradizionali, molto centriste di Biden, e dall'altro lato di non essere rifiutata dai neri e dagli immigrati in base alla sua a quello che ha fatto come procuratrice, cioè di esercitare la funzione giudiziaria con una mano forte. Ma io vorrei ricordare, proprio perché stiamo parlando essenzialmente dei candidati vicepresidenti, vorrei ricordare che sempre i vicepresidenti vengono scelti con l'idea di avere un'attrazione su quell'elettorato sul quale il presidente non ha una diretta attrazione. Sì. Questa è un po' la regola della formazione di quello che si chiama il ticket presidenziale. D'altra parte il presidente non può piacere a tutti, piacerà quasi a tutti, per quel quasi forse entra in campo anche per questo il vicepresidente. La voce del professor Massimo Teodori, Università di Perugia, storico americanista. Ricordo fra i suoi volumi Il Genio Americano. Un po' di messaggi al 349-238-6666. Pence era il pegno pagato alla destra religiosa, potrebbe anche fare scena muta e non sposterebbe un voto. Anzi, è talmente conservatore che quando parla fa danni, così scrive un ascoltatore. Professore, non le chiedo previsioni sull'esito delle presidenziali del 3 novembre, però sul clima, perché c'è un'agenzia battuta qualche ora fa, un'affermazione molto forte del Dipartimento della Sicurezza Nazionale, che dice I suprematisti bianchi e gli anarchici sono la maggiore minaccia terroristica interna negli Stati Uniti. Il Dipartimento sottolinea che questi gruppi potrebbero innescare scintille di violenza negli eventi legati alle elezioni del 3 novembre. Secondo un rapporto delle autorità americane, leggo testualmente l'ANSA, i suprematisti bianchi sono responsabili di 39 dei 48 decessi attribuiti agli estremisti violenti interni tra 2018 e 2019. Vede, professore, rischio di violenze? Sì, questo comunicato è un comunicato che pone l'accento e il fuoco sulla realtà. La realtà è che in questo mese Trump, la funzione di Trump non è stata quella di pacificare gli animi, ma di puntare anche sul conflitto, perché puntando sul conflitto di cui sono responsabili gli estremisti bianchi, i suprematisti bianchi, come ci ricordava il comunicato, ma anche le frange della criminalità che sono soprattutto nere, puntando sul conflitto, sull'accentuazione del conflitto, può far valere quella che è la sua parola d'ordine. Legge ed ordine, e quindi tutto quello che ci sarà di conflitto e aumenterà di conflitto in questo mese che ci separa dal 3 novembre sarà a favore di Trump, perché gli americani, la maggioranza, la grande maggioranza degli americani naturalmente cercano una tranquillità e non cercano il conflitto. Certo, e anche una stabilità di governo evidentemente in questi tempi potrebbe fare comodo agli Stati Uniti, che stanno fronteggiando una serie di eventi forse mai provati su tutti, questi picchi di contagi, il numero di morti che ormai stanno raggiungendo cifre allarmanti. Tra pochissimo torneremo con il professor Massimo Teodori, Università di Perugia, su altri numeri, che sono quelli dei sondaggi, molto spesso contestati, altre volte assolutamente fuorvianti, ma forse mai si era arrivato a questo, un sondaggio commissionato alla CNN, a 16 punti di scarto tra Donald Trump e Joe Biden. Secondo la media calcolata dal sito specializzato Real Clear Politics, il gap tra i due candidati in media è di circa 9 punti, a seconda dei sondaggi che si vanno a valutare. Le chiederò lumi su questi numeri, perché ci chiediamo com'è possibile che un sondaggio dia magari una forbice così ampia e poi però le urne ci consegnano, come è successo nel 2016, un risultato completamente diverso. Ancora una volta ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Nessun Luogo Lontano quest'oggi cerca di darvi strumenti per coloro che vorranno fare nottata, per meglio osservare e ascoltare il dibattito televisivo tra Mike Pence e Kamala Harris. Sono i due candidati alla vicepresidenza, il repubblicano e la democratica, quella l'ultima, brava, si è fatta le ossa, per così dire, non voglio sminuire la sua carriera come procuratrice distrettuale, quindi molto abile anche nell'eloquio, bravissima nell'affondare i colpi, molto aggressiva, probabilmente sarà questa la sua tattica questa sera. Dall'altra parte, pacato, sinuoso, a volte mellifluo, ma sa affondare il colpo anche lui, Mike Pence. In ballo che cosa c'è? Beh, innanzitutto lo si spera tutti, contenuti, quello che non abbiamo ricevuto dal confronto tra i due candidati presidenti. Intanto è con noi Massimo Teodori, insegna storia e istituzioni degli Stati Uniti all'Università di Perugia, Facoltà di Scienze Politiche. Professore, perché i sondaggi molto spesso in America regalano cocenti delusioni a chi li commissionano? Io non direi, io piuttosto dico che bisogna saper leggere i sondaggi, perché, mi spiego subito, il sondaggio nazionale è un sondaggio che può portare a molti errori e illusioni. Il sistema elettorale è un sistema elettorale che ricalca puntualmente la struttura federale degli Stati Uniti, vale a dire che i voti si calcolano Stato per Stato. Allora, i sondaggi che possono dare un'idea chiara e precisa, e la danno sempre, di come andrà a finire, sono i sondaggi relativi agli stati, e in particolare sono i sondaggi relativi ai cosiddetti stati in bilico, cioè sì, quelli che tradizionalmente non vanno sempre da una parte o dall'altra parte, ma possono andare da una parte, dall'una o dall'altra parte. Ad esempio, alla volta scorsa ci furono tre stati tradizionalmente democratici, Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, i quali votavano normalmente democratico, passarono a un voto per pochissimi 10.000 voti, 25.000 sì. voti, eccetera, ai repubblicani, e furono quelli che fecero la differenza, non già il voto nazionale, perché il voto nazionale fu in gran parte per 3 milioni di voti favorevole invece alla candidata democratica. Allora, anche oggi, oltre a guardare il dato nazionale, che però è molto marcato la differenza fra i due, guardiamo gli stati in bilico, e gli stati in bilico questa volta, non solo quei tre stati dell'altra volta, ma anche altri come Florida, Ohio, eccetera, eccetera, danno dappertutto un vantaggio a Biden, il che ci fa supporre ad oggi, se non succedono delle cose eccezionali, che dovrebbe avere la vittoria abbastanza assicurata. Però guardando i singoli stati e non il dato nazionale. Gli swing states, certamente, come appunto ci dice la stampa anglosassone. Avete ascoltato la voce del professor Massimo Teodori, insegna storia e istituzioni degli Stati Uniti all'Università di Perugia. Grazie mille, professor Teodori, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro e buon dibattito. Buonasera, se stasera sarà incollata la televisione. Grazie, alla prossima. A proposito di Florida, lo sapete, nelle scorse puntate in Nessun Luogo Lontano vi abbiamo fatto sentire le voci, la voce in particolare di un consulente politico non partisan che aveva lavorato per John McCain. Stiamo seguendo un po' questa strada, cioè andare a beccare quelle figure che aiutano i candidati, magari alla carica di senatore, non necessariamente quella di presidente o vicepresidente. Sono delle figure molto esperte che negli Stati Uniti hanno una loro professionalità, una loro autorevolezza molto molto consolidata. Ecco, scegliamo consulenti non partisan proprio per evitare, come dire, di prestare il fianco a critiche, per cercare di capire il loro punto di vista sulla campagna che stanno osservando. Antonio Taglia ieri notte ha raggiunto George Cruz, appunto un consulente politico che sta in Florida, segue alcuni candidati locali in uno degli stati più combattuti, lo avete sentito anche dal nostro ospite, e soprattutto si occupa del voto giovanile, che è quello che nelle intenzioni dovrebbe andare soprattutto a fa un po' sorridere, insomma, i due giovani vicepresidenti, 61 e 55 anni. Allora vi propongo la voce di George Cruz, consulente politico non partisan, ve lo ricordo, della Florida. Quali sono, a suo avviso, e questa è la domanda che gli ha fatto Antonio Taglia, le questioni cruciali sulle quali i due candidati si dovranno confrontare, che dovranno affrontare? Il punto è però, sullo sfondo di tutto, già vi preannuncio, cari ascoltatrici e ascoltatori, che non è detto che i dibattiti televisivi tra Biden e Trump si faranno. Bisogna vedere come andrà il decorso del presidente e bisogna vedere se Biden sarà ancora una volta testato negativo. Intanto sentite su cosa dovrebbe basarsi il confronto secondo George Cruz. Penso che per entrambi i candidati, molto semplicemente, la questione principale da affrontare consista nel conquistare davvero il sostegno del popolo americano. Per tutti, per il mondo intero, il 2020 è stato un anno molto duro. In tempi così problematici, se devi affrontare un'elezione, devi davvero conquistarti il sostegno del popolo, perché stai vivendo in un'epoca dove l'intera società sta subendo danni enormi. Negli Stati Uniti, in questo momento, la società è davvero esausta. Gli americani adesso sono alla ricerca di qualcuno che possa guidarli per davvero. La presidenza Trump ha generato senza dubbio molte tensioni. Il presidente ha una personalità narcisistica, pronuncia in continuazione parole che producono fortissime emozioni nel pubblico, in un senso o nell'altro. E poi non ricompone i contrasti provocati nella società. D'altra parte, Biden è un politico professionista, che spesso non applica quello che dichiara di voler fare. Non mi pare che abbia un piano coerente, come è sembrato evidente nel dibattito presidenziale di qualche giorno fa. Quando il moderatore ha posto delle domande, nessuna di esse ha ricevuto una risposta completa. Quindi la difficoltà principale è comune a entrambi i candidati. Debbono affrontarla tutti e due ed è molto diretta. Ottenere davvero il sostegno del popolo americano e riconquistare davvero la sua fiducia. Really getting the trust of the American people again. La fiducia, questo è quello che devono riconquistare i due candidati. Le parole di George Cruz, consulente politico non partisan, ha parlato al microfono di Antonio Tania dalla Florida, che è uno di quegli stati in bilico dove si gioca tanto tantissimo. Così come si gioca tantissimo tra poche ore, le 3 del mattino, qui in Italia, con Mike Pence che affronterà a muso duro Kamala Harris, in mezzo un plexiglass, perché i repubblicani hanno accettato, oltre a distanziamento di 3,6 metri, ci sarà anche il plexiglass a tutelare a tutelare la salute, appunto, dei due contendenti. Carlo da Latina, che scrive, è un interprete simultaneo e traduttore, dice: a proposito dell'eloquio, il primo dibattito Biden-Trump è stato anche linguisticamente molto povero, un inglese schematico, fin troppo, speriamo, nei candidati alla vicepresidenza. Così Carlo da Latina, è uno dei tanti messaggi arrivati al 349-238-6666. A proposito di lessico e di battute in punta di penna, Trump ha appena twittato e scrive: un matto. Così Donald Trump su Twitter bolla Joe Biden: è un matto, tutti lo sanno, e ha un quoziente intellettivo molto basso. Ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano, la risposta di George Cruz alla domanda sulla strategia adottata da Biden, che rimane molto molto in ombra. Vedremo se Kamala Harris tra poche ore invece affonderà qualche colpo e darà corpo in qualche modo a una strategia democratica che francamente sembra molto molto evanescente per il momento. Sentite George Cruz. I think Mr. Biden standing behind. Penso che la strategia adottata da Biden, ossia quella di rimanere nell'ombra degli errori commessi da Trump, sia una strategia un po' vigliacca. Sono sicuro che avrebbe dovuto adottare un approccio più forte, invece di restare un passo indietro per così tanto tempo. Ma conosco i suoi consulenti politici solo indirettamente e non mi è completamente chiara la direzione che hanno intrapreso in questa campagna. Ma consideriamo che cos'è la strategia politica per sommi capi. La gente vuole che al potere ci sia una persona che appare potente, e al momento la strategia di Joe Biden non mi sembra affatto potente. Forse questo potrebbe convincere di più gli elettori in questo momento storico? Non lo so, ma se fossi uno degli strateghi di Trump e volessi minare la credibilità di Biden, quello che farei in questo momento è accusarlo di nascondersi un po' dietro il carisma di Kamala Harris. Ritengo che questo sia un punto estremamente debole nella campagna di Biden, e mi pare che in questo contesto politico sia un po' come nascondere la polvere sotto il tappeto. Quindi sarebbe stato saggio investire alcune risorse nel riportare il discorso su questi temi. Questa è l'analisi di George Cruz, consulente politico non partisan. Ha parlato dalla Florida. Intanto un ascoltatore o ascoltatrice ci corregge giustamente, dalla Florida appunto. Kamala Harris non è afroamericana, suo padre è giamaicano, la madre indiana. Questo l'aiuta, scrive, a essere vista favorevolmente dalla comunità di immigrati negli Stati Uniti e anche dagli afroamericani. E chiude con un saluto, ci fa piacere evidentemente, dati i temi che trattiamo, che molti ascoltatori ci scrivono da luoghi, ripeto, apparentemente lontani. Un luogo invece molto molto più vicino ci ha consegnato la chiusura di un processo durato 5 anni e mezzo, che potremmo sintetizzare in forse 2 parole, anzi 3: il tramonto dell'alba dorata. Abbiamo aperto questo negozio per aiutare la nostra gente. I greci hanno fame, noi li aiutiamo, solo loro. Dicono di essere un partito nazionalista, dicono che ridaranno dignità al popolo greco e sono contro gli immigrati che rubano il lavoro. Και εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά. Για να κλέψω λίγο πίσω από τα λάθη. Να στέλνω πέρα This is the leader of Greece's far-right Golden Dawn Party, Nikos Michaloliakos. Questo è il leader del partito greco Alba Dorata, Nikolaos Michaloliakos. He's been arrested by È stato arrestato dalla polizia greca dopo l'uccisione di un rapper antirazzista da parte di uno dei supporter di Alba Dorata. The two most important decisions Tra le decisioni principali were the guilty verdicts il verdetto di colpevolezza per Yorgios Rupakias, l'uccisore del rapper Pavlo Fafissas. E così, nei nostri consueti 90 secondi, Valeria Bernardi e Valentina Ternullo hanno ricapitolato quello che è accaduto. Sentenza storica, peraltro davanti, si fa per dire perché erano fuori dalla corte evidentemente, almeno 10.000 persone, 5 anni e mezzo di processo, alla sbarra molti esponenti di Alba Dorata, peraltro nessuno di loro mai siede in Parlamento o ricopre cariche pubbliche degne di nota, ma sicuramente è accaduto qualcosa di notevole. Ci facciamo spiegare tutto in diretta da Atene, da Dimitri Deleonanes, giornalista greco, ha raccontato l'Italia per decenni per ERT. Dimitri, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto che aria tira ad Atene? Ci sono stati scontri proprio fuori dal Parlamento dopo la notizia, la lettura della sentenza. Adesso com'è la situazione? No, è una situazione tranquilla e anche più che scontri è stata un'aggressione immotivata della polizia verso il settore, diciamo così, più giovanile, più vivace della grandiosa concentrazione che c'è stata fuori al Tribunale di Atene, oltre che molti più che di 10.000, io calcolerei sui 100.000 persone, cioè grandissima. Caspita. Manifestazione antifascista, sì. Come non se ne vedevano da tantissimi anni, segno che quanto la gente ci teneva a questa condanna. Sì. Allora ricordiamo, tra i condannati d'eccellenza, Nikos Michaliokos, 62 anni, negazionista della Shoah, insomma uno che non le mandava certo a dire, anche Georgios Rupakis, anche lui militante, condannato per l'omicidio di Pavlos Fissas, peraltro avete sentito anche alcuni versi del rapper che fu ucciso con l'arma bianca nel 2013, era una notte tragica che ha segnato inevitabilmente anche la politica greca. Dicevo, Dimitri, nonostante il fatto che non vi siano esponenti di Alba Dorata ormai che ricoprono incarichi importanti, che conseguenze politiche può avere per il paese questa sentenza? Beh, sicuramente c'è il fatto, cioè per la prima volta viene riconosciuto dalla giurisprudenza greca che alcuni partiti politici si presentano come partiti politici, poi invece sono nella sostanza delle organizzazioni criminali. Questo è molto importante perché appunto permette di distinguere tra la politica, nel caso nostro il nazionalsocialismo, che in Grecia è un'ideologia non perseguibile per legge, al contrario che in Italia o in Germania e in altri paesi europei, sì. E invece l'attività criminale che ne consegue da questo tipo di ideologia. Questo mi sembra un insegnamento importante, fino a ieri non c'era in Grecia questa cosa, adesso c'è questa possibilità di distinguere tra gruppi criminali, e anche se travestiti da gruppi, da chiese, da filodrammatiche, insomma da qualsiasi cosa, c'è la possibilità di indagare se compiono delle attività criminali proprio a causa della loro visione del mondo, diciamo. Certo. Così. E anche alcune macchinazioni, perché oltre all'omicidio del rapper ci sono almeno altri due tentativi di omicidio, più altri vari capi di imputazione. Se riesci, Dimitri, in una trentina di secondi, quegli altri gruppi che in Europa flirtavano e si parlavano con Alba Dorata, adesso secondo te soffriranno conseguenze? Sì, secondo me sì, rimangono senza un importante alleato, era fino a qualche anno fa, era il terzo partito nel Parlamento greco, adesso ha eletto due parlamentari europei e si sono autonomizzati il giorno dopo, quindi insomma, certo. Francamente hanno perso un importante sostegno, un importante alleato, questo mi sembra una sconfitta importante per tutta l'estrema destra europea. La voce che avete ascoltato è quella di Dimitri Deleonanes, giornalista greco, collega che ha raccontato proprio l'Italia per l'emittente ERT. Dimitri, è un po' inusuale, però adesso ci facciamo cacciare insieme da Valeria Bernardi, stai con me? You're fired, you're fired, you're fired. E mentre ci accomiatiamo, naturalmente ringraziamo tutta la squadra di Nessun Luogo, ma soprattutto voi che siete stati all'ascolto. L'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci. Ora!